mi trovi in giro solo a notte fonda. La mia banda è dark, la tua banda conta non conta. Fanculo a chi non conta. Giorione Night Dry Fit. Sto fumando quello G. Chiamami Tony o Tony F, baby. Baby, alzo soldi per la mia squadra. Vuoi beccarci giù in piazza? Ho soldi in tasca come se non ci fosse una banca. Voglio la testa di chi parla. La mia squadra non parla. Parli di noi bastardo, scappa, scappa. La mia tipa dice che sono troppo violento. Amore con la squadra, ho fatto il giuramento. Fanculo io non mento. Se abbassi gli occhi è tradimento. Puoi chiamarmi anche Tony lo svetto. Bocca cucita come una cerniera. Tony ti sfiletta come una cernia. Parlo a bocca chiusa, mangio a bocca aperta. Sono fuori con la gang, puoi beccarmi giù in bottega. Porto al collo dei per sentirmi venerato. Porto nel cuore lei per sentirmi più amato. Dammi un 5 mentre fingi di parlare all'iPhone. Mentre fingi di dirmi che i soldi non li ho. Uruace, sbarco lunare. Stiamo alti, non ti dai pace. La mia gente non fa la pace, come Obama, premio per la pace. Non calpestarmi le scarpe, vado fuori di testa. Ho comprato un nuovo Moncler con gli interni in Kevlar. Copro il cranio con uno snapback, sulla visiera 37, pronto a uccidere voi zecche. Fanculo alla legge. Sto con Tony sul Golf GT modalità aereo. Sei rimasto fra tre spot in modalità aereo. Ci hanno preso cazzo fra, è arrivata la dea. Faccio due chiamate in fretta, spero arrivi un'idea. Sai, sti agenti con i gadget, ispettori zenigata. Non ci prenderanno mai fra, non conoscono la strada. Pensano di stare avanti perché franno in tasca un'arma. Ho la libertà in tasca e rione tra le braccia. Dark side postato come un orologio a cucù. Rapper spaventati pensano che faccio il voodoo. Non fumo erba coi semi, sto fumando quella couscous. Fotti con me, mio fratello ti trasforma in couscous. Cazzi momos, ci becchi in sette in giro incappucciati come il couclux. Qualche vogliono bermi tipo glu glu, ma sono troppo svelto, ho appena cambiato telefono. Non dormo la notte pensando ai soldi che mi servono. I miei fratelli in strada li cercano in astinenza. Tieni alla vita, fotti con la gang, rimani senza. Prima di agire pensa, sto su quelle benzo. Fumo un sacco d'erba tutta quanta alla testa. Baby è fire, accelerate, fanculo chi non crede. DPG 777, sul campo come i Lakers. Schiacciali come crackers, a pezzi come Bender. Questa è la tua gang, beh non sono gangbanger. E non metto quelle Puma, nuova Air Force 1. Entro con GK e non dice un cazzo nessuno. Sto fumando Super Silver, sto con una super figa. Al telefono con Sai, gli dico io chiamo il tipo. Falli fuori tutti quanti, bang, bang. 88 pazzi, all black come un nazi. Triple black, neck, ruaci, gang di lupi mannari. Stiamo fatti su quello Xanax, 4-5 dentro i miei boxer. Ti trasformano in un fantasma.